questo è Lord Madness per Joe Vets. Torino rappresenta, missione compiuta. Ricordate, missione compiuta, non missione computer. Spengete la merda e accendete il cervello. Peace, Joe Vets, yeah, questo è Lord Madness. Mi dicono in giro di fare attenzione, in ogni singola parola mi mette in tensione. Io me ne sbatto e faccio lo sbruffone. Dopo un po' ti accorgi che non sono io ma è un clone. Maledizione, stile in abbondanza, restare concentrato a lungo, maestro di meditazione. Tanto sano allenamento, usi il 50% della concentrazione. Supero la barriera del suono per entrare in un'altra dimensione. Ci dicono aiutate la nazione, ma noi carichi per la rivoluzione. Se scendiamo in piazza ma non in 200.000 tutta la popolazione. Che frustrazione, avere un lavoro e dopo qualche secondo ti buttano in strada come un barbone. Che c'è, dite che adesso non ho ragione, ognuno ha la sua opinione. Non ci vuole una scienza per capire la questione. La lampadina si accende, illuminazione, l'epoca è cambiata, un'altra generazione. Sì, generale, porto rispetto alle persone. Ne vado fiero, dell'hip hop è la mia passione. C'è cultura, anche competizione. Fare sta roba, siamo più di un milione, più di un milione. Guardati in giro e fai attenzione, ti fissano con lo sguardo, ti mettono in tensione, fai attenzione. Guardati in giro e fai attenzione, con lo sguardo ti mettono in tensione, ti mettono in tensione. Illustrazione, non esiste più movimento, ogni cosa c'è un'applicazione, dannazione. Io me ne sbatto e vado in giro con la flotta e il mio plotone. Come i dinosauri ci sarà l'estinzione, sarà una nuova invenzione. Ci servirà come lezione, non ho la percezione del tempo. Contro l'inquinamento si dovrebbe fare una petizione. Sono sempre su ste strade in azione, volume 1 in missione. Uso una strana pozione, le particelle in ebollizione. Ricordati di portare rispetto alle persone. Di portare rispetto alle persone. Guardati in giro e fai attenzione, ti fissano con lo sguardo, ti mettono in tensione, fai attenzione. Guardati in giro e fai attenzione, con lo sguardo ti mettono in tensione, ti mettono in tensione.